Sono figlio di papà, gemelle ascendente scorpione. Sono figlio di papà, e questo è il ballo del minchione. Sono figlio di papà, e scusatemi se in questa canzone dico sempre papà. Sono figlio di papà, lui lavora alla Cassazione. Sono figlio di papà, io di mestiere faccio il professore. L'idea è stata di papà, vuoi fare il professore bello di papà? E che sono di buona famiglia, beato davvero a chi mi piglia. Sono un fortunato bamboccione, so portare la borsa ministeriale. Sono figlio di papà, con vocazione ministeriale. Se ero figlio a un altro papà, finivo a lavare le scale. Io sono figlio di papà, e lo dico papale papale, sono figlio di papà. E che sono preparato, un professionista assassinato, laureato così precocemente che alla festa di laurea non ne sapevo niente. Sono figlio di papà, e sono figlio di papà, e per favore non mi dire no se partecipo al concorso truccato. Per favore non mi dire no se mico tanto pubblicato. Per favore non mi dire no, devo fare carriera per forza, non mi dire no. E per favore non mi dire no, magnifico rettore. Per favore non mi dire no, ha telefonato il cardinale. Eccellenza va bene, obbedirò, ricordami il candidato che provvederò. Diritto divino naturale, lo dovete sistemare. Una cattedra sa da trovare, perché chi sei figlio di papà? Sono figlio di papà, sono figlio di papà, perché sono fortunato, sono un poco allampanato. Io ce l'ho scritto nel DNA che sono figlio di papà. E per favore non mi dire no, e per favore non mi dire no, e sono un figlio di papà, e sono un figlio di papà, e sono un figlio di papà.